Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. I vescovi attaccano la legge sulle unioni civili, di fatto un'equiparazione al matrimonio, dice Bagnasco. Siamo in attesa del colpo finale, l'utero in affitto, aggiunge. Indagato per malversazione, l'ex vescovo di Savona Domenico Calcagno, oggi amministratore della sede apostolica, al centro dell'inchiesta investimenti immobiliari. Le stime dell'Istat per il 2016, PIL in crescita dell'1,1% e disoccupazione in calo all'11,3% verso il via libera europeo alla flessibilità di bilancio. Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia, Mattarella contro le discriminazioni, ai nostri microfoni il racconto di Nicolò picchiato e cacciato da un ristorante. Occhi sul Brennero, ma Tarvisio è nel caos. Dal confine austriaco passano tra i 50 e i 60 migranti ogni notte che arrivano in Italia. Fotosegnalati in Ungheria, non li si può rimandare indietro. Non solo Licata, il caso del sindaco di Palma di Montechiaro, 900 costruzioni abusive da abbattere, minacce di morte, incendi agli autocompattatori. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. In apertura, prima di andare a parlare del Cardinal Bagnasco che appunto si scaglia contro le unioni civili, ci occupiamo di una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva dall'Iraq, dove due attentati suicidi a Baghdad hanno provocato oggi almeno 44 morti e oltre 90 feriti, lo riporta l'Arabia che cita fonti mediche della polizia. Questo per quanto riguarda le cronache che arrivano dall'Iraq, arriveremo su questo tema più avanti, più che altro occupandoci di Siria. Intanto, come si diceva, veniamo all'Italia e veniamo alle parole di Bagnasco. Un duro attacco alla legge sulle unioni civili e la richiesta di una manovra fiscale coraggiosa a favore delle famiglie. Nella sua relazione all'Assemblea Generale della CEI, il Cardinal Bagnasco punta il dito contro una legge che, a suo avviso, sancisce di fatto un'equiparazione al matrimonio e alla famiglia, in attesa di quello che chiama il colpo finale, la pratica dell'utero in affitto che sfrutta il corpo femminile profittando di condizioni di povertà. Per Bagnasco troppa enfasi e troppe energie sono state profuse per questa legge. Altri sono i problemi del paese. Il lavoro, con una disoccupazione tra le più alte d'Europa, la povertà, con una ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi, spesso anche corrotti, le dipendenze, il calo demografico. Il presidente della CEI sollecita interventi per invertire il trend in tema di natalità, chiede una manovra fiscale coraggiosa che dia, dice, finalmente equità alle famiglie con i figli a carico. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Indagato per malversazioni l'ex vescovo di Savona. Sentiamo. L'accusa contestata dalla procura di Savona è malversazione. Tra i quattro indagati figura il cardinale Domenico Calcagno, fino al 2007 vescovo della città ligure, oggi al vertice dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica e numero uno dell'istituto di sostentamento del clero della diocesi savonese. Al centro dell'inchiesta una serie di operazioni immobiliari che proprio questo istituto avrebbe condotto nel corso degli anni, di fatto trasformando in termini affaristici la sua funzione originaria. Tra gli investimenti effettuati, con risultati che si sono poi rivelati fallimentari, il progetto per trasformare una vecchia colonia di celle ligure in un hotel di lusso e l'edificazione di appartamenti e box al posto di un ex asilo di Albisola. Operazioni appunto in perdita, con il bilancio dell'istituto che già nel 2009 segnava un passivo molto pesante, milioni e milioni. Oltre al cardinale Giacomo Calcagno sono indagati l'ex presidente dell'istituto Don Pietro Tartarotti, il suo vice Gian Michele Baldi e il figlio di quest'ultimo Gianmarco. Stamane il cardinale ha detto di aver appreso dell'inchiesta dai giornali e aggiunto: sono sereno per il lavoro svolto, attendo fiducioso l'evolversi della vicenda. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. In occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, anche il Presidente della Repubblica Mattarella prende posizione. La non accettazione della diversità genera violenza, ha detto. È inaccettabile che l'orientamento sessuale delle persone sia pretesto per offese e aggressioni. Aggressioni come quella subita 15 anni fa da Nicolò, un 28enne del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma, che ha raccontato la sua esperienza al microfono di Alessandra Iannuzzi. Io già da ragazzino ho avuto, insomma, delle esperienze un po' spiacevoli, in particolare alle scuole medie. Fuori scuola noi avevamo sempre un ritrovo con gli amici in una panchina e lì niente, sono stato circondato da un ragazzo, da un bulletto, è venuto col motorino e, insomma, mi ha preso a spintoni, poi mi ha cominciato a tirare dei caschi addosso, insomma, in testa, poi sono svenuto e non ricordo più nient'altro. Questa è stata un'esperienza, devo dire, particolarmente, insomma, mi ha segnato parecchio, poi, ecco, perché poi per un periodo non ho più frequentato il quartiere, almeno per 6 mesi ho avuto paura proprio, insomma, a frequentare quella via. E poi sì, insomma, in parecchie circostanze, purtroppo, insomma, per strada, in giro. Mi ricordo un'altra volta in un locale, io ero con un amico, insomma, ci hanno invitato ad uscire dal locale perché ci stavamo baciando, e quindi, insomma, di situazioni spiacevoli ne ho subite parecchie. Devo dire che, insomma, negli ultimi anni le cose, insomma, mi sembrano un pochino migliorate, forse anche alla luce del fatto che se ne parla di più, che si discute di più di questa cosa. Siamo all'economia. L'Istat diffonde le previsioni sul 2016. La crescita accelera, la disoccupazione cala, gli investimenti e i consumi riprendono. Segnali positivi, anche se minimi, ma pur sempre spiragli che fanno ben sperare per la nostra economia. Il quadro è certificato dall'Istat, che per il 2016 prevede un PIL all'1,1%, allineandosi così alle stime della Commissione europea, a fronte invece dell'1,2% preventivato dal governo nel DEF. Prosegue dunque, seppur con intensità moderata, spiega l'Istituto, la fase espansiva dell'economia italiana avviatasi agli inizi dell'anno precedente. Buone notizie anche per il lavoro: il tasso di disoccupazione scenderà nel 2016 all'11,3% dall'11,9% del 2015, e anche i consumi sono visti in crescita. La spesa delle famiglie, sostiene l'Istat, è stimata in aumento dell'1,4%. L'Istituto vede rosa anche sul fronte degli investimenti, la cui ripresa, scrive, ha concluso una lunga e profonda fase di contrazione iniziata nel 2008. Non mancano però i rischi al ribasso, che potrebbero dipendere soprattutto da un rallentamento più deciso del commercio internazionale e da un eventuale riaccendersi di tensioni sui mercati finanziari. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto la partita con l'Europa sulla flessibilità sembra ad una svolta. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. A questo punto manca solo l'ufficialità e che la lettera di Bruxelles a Palazzo Chigi sia pubblica, ma il via libera alla flessibilità per il nostro paese è un dato di fatto, lo confermano fonti europee. Questi termini, la Commissione dà il via libera per l'Italia ad una flessibilità pari a 0,85% del PIL per il 2016, lo 0,10 in più di quanto previsto, ma ricorda che il Paese, come prevedono le regole, dovrebbe fare uno sforzo superiore allo 0,5 nel 2017 e nel 2018 sul fronte delle finanze statali. Sempre secondo queste indiscrezioni, nella lettera inviata da Bruxelles a Roma si chiede all'Italia di impegnarsi ad evitare una deviazione significativa da questo obiettivo da verificare in autunno. Lo stesso Presidente del Consiglio Renzi questa mattina aveva dato per fatto lo sblocco della flessibilità. Il Ministro Padoan, parole di Renzi, ha fatto un lavoro straordinario e potremo vedere riconosciuto l'elemento della flessibilità. Molto critiche però, Simone, le opposizioni, ci sono già i primi commenti. Il nulla osta della Commissione europea è solo una vittoria di Pirro per Renzi, dice Brunetta, Forza Italia. Ad ottobre i nodi verranno al pettine e gli italiani dovranno subire una maxi manovra da 40-50 miliardi di euro. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Il dibattito politico si concentra anche su amministrative e referendum. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, non temo l'election day, avrebbe detto il premier Matteo Renzi dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, che ha fissato il voto solo nella giornata di domenica per amministrative e referendum. Non mi è mai fregato nulla di fare le elezioni in 2 giorni, era una richiesta delle opposizioni per favorire la partecipazione, ma i retroscena parlano di un premier infuriato proprio con le opposizioni contrarie all'inizio al voto nel ponte del 2 giugno, inevitabile per il premier per altre festività nelle altre domeniche. Per Renato Brunetta, Forza Italia, la retromarcia del governo è invece sintomo della fragilità di Renzi. Intanto soddisfazione di Stefano Fassina a Roma, dopo che il Consiglio di Stato ha riammesso la sua lista ed è convinto che ci siano le condizioni per Sinistra Italiana di andare al ballottaggio. A Milano è stata riammessa la lista di Fratelli d'Italia, così anche come la lista Fucsia, e a Cosenza rientra la lista Espressione del Nuovo Centrodestra. Nei 5 Stelle invece ancora tiene banco la questione della sospensione del sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Ad intervenire sulla stampa Antonio Cozzolino, sindaco 5 Stelle a Civitavecchia, che difende Pizzarotti e critica la decisione perché, dice, sarà un freno alla corsa dei 5 Stelle alle amministrative. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. E sulle amministrative, sulla decisione del governo, l'analisi di Daniele Biacchessi. La proposta del ministro dell'Interno Angelino Alfano di votare in due giorni per le prossime amministrative è stata definitivamente bocciata. L'idea era quella di diluire l'operazione di voto il 5-6 giugno per il primo turno e 19-20 giugno per il secondo turno, cioè per gli eventuali ballottaggi. Ma non si sconfigge l'alta e prevedibile astensione aumentando i costi generali dell'organizzazione della elezione. I partiti, attraverso i loro candidati, dovrebbero invece puntare ai problemi veri delle città, quelli che toccano da vicino la vita delle persone, più che alle alchimie, i posizionamenti, i distinguo, gli arroccamenti che allontanano sempre più i cittadini dalla politica. Parlare, ad esempio, dei problemi risolti, quelli ancora rimasti inevasi, le questioni urbanistiche, i trasporti, la circolazione, l'emergenza abitativa, l'ambiente, la cultura, la trasparenza negli atti amministrativi e l'equilibrio dei bilanci. Insomma, la vita delle città che in questa campagna elettorale francamente stenta ad emergere. Alla fine ha dunque prevalso il buon senso nei confronti di 13 milioni e mezzo di elettori chiamati ad eleggere sindaco e consiglio, pensate, in 1365 comuni, tra cui 7 capoluoghi di regione come Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste e 26 comuni capoluogo di provincia. Andiamo all'estero. Ora, ieri si è discusso di Libia con scarsi risultati, come abbiamo visto. Oggi i vertici internazionali discutono invece di Siria. A Vienna torna a riunirsi il gruppo di sostegno internazionale alla Siria, guidato da Stati Uniti e Russia. Tre i temi al centro del confronto sui quali l'amministrazione americana insiste per rilanciare i negoziati di pace: un consolidamento del cessate il fuoco, garanzie per l'invio degli aiuti umanitari in tutto il paese e un'accelerazione della transizione politica, un obiettivo quest'ultimo che oggi appare quello più difficile da realizzare nonostante sia previsto anche da una risoluzione dell'ONU. La Francia accusa Russia e Iran di continuare a sostenere dal punto di vista politico, finanziario e militare il regime di Assad, permettendogli così di restare al potere. Bisogna ridare slancio ai negoziati, sostiene anche il ministro degli esteri italiano Gentiloni, ma la riunione si prevede molto più complicata di quella sulla Libia, che si è tenuta ieri sempre a Vienna. Nel paese nordafricano non verranno inviate truppe, ma la coalizione internazionale ha deciso di allentare l'embargo per fornire armi alla guardia presidenziale fedele al governo di al-Sarraj per meglio contrastare così l'avanzata dell'ISIS, ma anche il traffico di esseri umani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani e dopodomani a Bruxelles si riunisce il comitato di esperti in materia di piante, cibi e mangimi, che dovrebbe prendere una decisione sull'utilizzo del glifosato, l'erbicida più diffuso al mondo. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito che non è provato che sia cancerogeno. Abbiamo chiesto un'opinione su quello che deve avvenire, sul voto che ci deve essere, a Mario Guidi, presidente di Confagricoltura. Sentiamo. Beh, noi da sempre siamo stati certamente per il principio di precauzione nell'utilizzo di questo prodotto, che però giudichiamo strategico e di grande vantaggio ambientale, perché il glifosato è un prodotto che ci consente di fare quella che noi chiamiamo l'agricoltura conservativa, ovvero un'agricoltura che conserva il suolo, che conserva la biodiversità e che però utilizza questo prodotto per diserbare, cioè togliere quegli infestanti che altrimenti avrebbero bisogno di utilizzare ben altri principi attivi molto più invasivi per l'ambiente. E quindi credo che la comunicazione dell'OMS abbia ristabilito la chiarezza scientifica del fatto che questo prodotto, proprio per le possibilità di contatto con l'uomo, ha un bassissimo rischio di cancerogenicità. E non dimentichiamo che questo parere si affianca a quello dell'EFSA di Parma, che già aveva definito il prodotto probabilmente non cancerogeno. C'è qualcosa di ulteriore che si può fare per limitare l'utilizzo di questo prodotto sulla base di quel principio di precauzione che lei stesso invocava pochi istanti fa? Beh, io credo di sì, e qualcosa che sarebbe proprio corretto per un'Italia che vuol difendere il proprio Made in Italy. Il glifosato è un prodotto che teoricamente può essere utilizzato anche su certe colture proprio per accelerarne la maturazione. È una pratica che viene utilizzata in altri paesi, in Nord America per esempio, o anche in Inghilterra, ma a cui noi possiamo sicuramente rinunciare proprio per evitare che questo prodotto sia dato sulla coltura e quindi per esempio sul grano o su altre colture. E poi potremmo puntare sui glifosati di nuova generazione che utilizzano dei coformulanti più rispettosi dell'ambiente. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione ci sposteremo tra la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia nel nostro consueto giro per l'Italia. Andremo prima in Sicilia perché abbiamo parlato lungamente della vicenda di Licata e del sindaco minacciato, ma ci sono altri sindaci in Sicilia, nella fattispecie nell'Agrigentino, che lottano contro l'abusivismo e per questo subiscono anche minacce di morte. Ne sentiremo uno e poi parleremo della frontiera del Tarvisio, perché molto abbiamo parlato del Brennero, ma la frontiera del Tarvisio è un vero e proprio colabrodo e gli immigrati arrivano, ma soprattutto arrivano dall'Austria. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei vescovi che attaccano la legge sulle unioni civili, abbiamo parlato dell'indagine per malversazione sull'ex vescovo di Savona Domenico Calcagno, della giornata mondiale contro l'omofobia, delle previsioni dell'Istat per il 2016 con un PIL in crescita dell'1,1%. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziando a Palma di Montechiaro, e siamo in provincia di Agrigento. In linea con noi il sindaco Pasquale Amato. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, 900 costruzioni abusive sul suo territorio, ha detto, di cui tra l'altro 600, mi sembra di aver capito, occupate da famiglie. E una lotta, quella sua, contro l'abusivismo che ha visto anche minacce di morte. Relativamente agli abusi edilizi, no. Relativamente al contrasto di altri abusi, ritengo di sì, perché a quell'impegno che ritengo di dover ascrivere le minacce ricevute nel 2014, perché qui l'abusivismo si estende al commercio, si estende all'evasione fiscale, si estende agli allacci idrici abusivi, insomma, non ci sono confini, non ci sono limiti. Lei dice più in generale qualsiasi lotta con la legalità, per la legalità nelle zone che lei amministra comporta inevitabilmente una minaccia di morte. No, non è una cosa bella, diciamo, da considerare, però è chiaro che chi si propone per cambiare il sistema, per portare legalità, si va a scontrare con soggetti che naturalmente non usano l'arma della legalità per contrapporsi, ma armi di cui sono abituati, che l'illegalità li ha abituati a fare. E quindi è chiaro che si arriva anche alla minaccia di morte. Eh certo, criminalità organizzata, ma non solo criminalità organizzata a questo punto, sindaco. No, cioè, si tratta anche di qualcosa di diverso. Purtroppo succede che ci sono sacche della Sicilia dove di fatto ha plasmato l'illegalità come sistema, ha plasmato i comportamenti di ognuno che vive nella vita quotidiana della nostra comunità, fino a farne un altro sistema. E oggi proprio con la lotta all'abusivismo si sta realizzando quel contrasto a questo sistema che è antistato, che è tipico delle realtà dominate dall'illegalità diffusa, tipico delle realtà dove l'humus più adatto per la crescita della mafia viene alimentato proprio con la diffusione dell'illegalità. Questo è il cancro peggiore, così come lo descriveva Bufalino, è la mafiosità. La mafiosità, ancora, che appunto è il prodromo dell'aderenza della mafia al territorio. Senta, sindaco, 900 costruzioni abusive da abbattere, 900, son tante, come intendete procedere? Sono tanti i problemi, perché qui rischiamo di entrare in uno schiaccianoci gli amministratori, perché bisogna andare a dipanare l'ordine che non è stato dipanato in passato. E quindi bisogna andare ad affrontare mille problemi che si aggrovigliano l'un l'altro, con l'intelligenza che dobbiamo avere di non far coagulare intorno agli abusivi anche le persone per bene, accomunandoli o attraverso l'emotività delle condizioni che andiamo a creare o attraverso specifici interessi. Mi spiego, così diventa più pratico. Sì. Se io devo eseguire l'ordinanza di una demolizione di un fabbricato dove c'è una famiglia dentro e questa va fuori con un bambino in grembo o in braccio a una mamma, è chiaro che lì si suscita che cosa? L'attenzione, l'emotività, e allora lì bisogna andare a affrontare il problema, perché va affrontato, cercando di realizzare prima della demolizione le soluzioni che dobbiamo andare a cercare, certo. Perché non creiamo un fronte, non ampliamo il fronte dell'illegalità contro lo Stato. Un altro problema, l'aspetto economico. Siccome per esempio di questi giorni mi arriva la comunicazione della Procura della Corte d'Appello di Palermo di accendere un mutuo perché si proceda alla esecuzione della demolizione. È sì. Chiaro, è vero, la legge dice che si esegue in sostituzione e danno, ma il 100% di risposta che questo accada non ce l'abbiamo, e quindi si rischia che questi mutui si cadano sulla testa delle persone per bene. Certo. E allora, cosa fare? Fra l'altro poi non parliamo del dissesto, diciamo, economico che si andrebbe a creare, perché immaginate i numeri di cui lei stesso ha parlato, e immagine che per una demolizione i preventivi mandati a messa dalla procura variano dai 40 alle 90 mila euro a fabbricato. Solo per una demolizione, insomma. Per una demolizione. Immagine, faccia ora il rapporto ai 900 e vedete che numeri escono. Io immagine che ho circa un bilancio di circa 7 milioni al netto di rifiuti ed acqua. Quindi immagini che rapporto c'è, cioè non ci sta bene dentro la soluzione. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo avviato noi per creare un fondo da dove prelevare senza penalizzare le persone per bene, che era previsto nello sblocca Italia. Gli uffici che finora non si sono attivati, stiamo cercando di attivarli, perché realizziamo che cosa? Un fondo che cosa prevedeva in pratica questa norma? Era un comma aggiuntivo all'articolo 31 del codice dell'edilizia, che era il comma 4 bis. In pratica cosa prevedeva? Prevedeva che a chi aveva ricevuto l'ordinanza di demolizione e non aveva eseguito, va contestata e applicata una sanzione che varia dalle 2.000 alle 20.000 euro. Okay. Questo ci permette di far caso. Ora, tutto questo significa andare a mettere in moto tutto ciò che era stato stantio, che era stato stagno, cioè che non si era mosso. Certo. Perché io purtroppo mi trovo in una realtà dove ho più volte fatto disposizione agli uffici miei, che io dirigo, questo l'ho segnalato naturalmente anche in procura, che mi rigettano la richiesta di condono edilizio a un cittadino, e dopo un mese emettono l'ordinanza di demolizione, e quel cittadino, fra l'altro, poi è stato un caso, va a demolire lui spontaneamente dopo l'ordinanza. Invece lo stesso ufficio che emette e rigetti di concessione edilizia in sanatoria dal 2006 e non ha mai emesso l'ordinanza di demolizione, nonostante tre solleciti del sottoscritto ad emettere l'ordinanza di demolizione. Sono anche questioni, se vogliamo, interne. Solo interne, fanno parte di un sistema che non paga. Fanno parte di un sistema che non ha fatto pagare le responsabilità. Mi dice una cosa solo brevemente, sindaco, poi la devo salutare, poi magari ritorneremo da lei nelle prossime settimane, perché abbiamo intenzione di seguire la vicenda. Ma lei questi riesce a licenziarli oppure no? No, tutt'altro. Io mi trovo addirittura con il segretario, al quale avevo chiesto di sovrintendere a queste mancanze, che ogni mattina, utilizzando, diciamo, la sua posizione, fra l'altro, di responsabile per l'anticorruzione, ogni mattina, se io faccio una disposizione, mi segnala alla procura come se io facessi angheria a lei, come se io la perseguitasse, facessi mobbing. Cioè io qui, questa è la realtà. Questa è la realtà. Dobbiamo monitorare con il problema. Dopodiché l'ultima cosa la chiedo io, prego, nel momento brevemente. In cui il funzionario non emette l'ordinanza dovuta, naturalmente su chi si concentra l'attenzione dell'abusivo? Sul sindaco che preme, sul sindaco che fa. Ecco, questo è il sistema incancrenito che dobbiamo lottare. La ringrazio, grazie Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento. Ci spostiamo invece all'estremo nord, al valico di Tarvisio, con Donato Carrozzo, che è segretario provinciale aggiunto a Udine del SIULP, che è un sindacato di polizia. Carrozzo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Nei giorni scorsi avete avuto, non so se addirittura ieri, avete avuto una riunione col prefetto perché a Tarvisio si sta creando un problema grosso, perché di migranti ne stanno arrivando parecchi, ma arrivano dall'Austria, ho capito bene? Buongiorno, sì sì, parliamo proprio di cose che sono contrastanti con quello che si sente sui media nazionali. Noi sentiamo parlare o vediamo i media concentrati sul muro teorico che l'Austria dovrebbe realizzare al confine col Brennero per evitare i flussi, diciamo così, dei migranti che dall'Italia potrebbero entrare nel territorio austriaco. In realtà qui abbiamo una situazione diametralmente opposta, cioè dall'Austria arrivano in Italia tramite il valico di Tarvisio, per lo più tutti in treno, con il Venezia, con il Vienna Venezia, con Allora sono, da quel che ho capito, per dare un quadro sui numeri, 50-60 ogni notte, ogni giorno più o meno, mi sembra di aver... Numeri, l'altro ieri sono arrivati in 46 nella fascia, diciamo così, notturna, prima mattina. Dall'inizio del mese parliamo di 480 arrivi e dall'inizio dell'anno siamo arrivati a 2700 migranti che arrivano dall'Austria. Quasi 3.000. Mi spiega una cosa, Carrozzo, perché mi sembra di aver capito che il meccanismo è questo. Arrivano dall'Austria, ma prima arrivano dall'Ungheria. Sono fotosegnalati in Ungheria e quindi non possono essere rimandati in Austria. Ho capito bene? Sì, diciamo che c'è anche questa realtà. Perché chiaramente qui subentra Berlino, con l'accordo di Berlino, con... Però diciamo così che ci sono le autorità austriache che poco collaborano, anzi, a mio parere, a parere del SIULP, agevolano questa, diciamo così, questo deflusso dal loro territorio nazionale, e chiaramente ci troviamo qui nel confine estremo del nord-est e a doverli trattare come chiedenti asilo, con tutti gli obblighi, i diritti da salvaguardare per questi soggetti che... Ma ci vorrà, Carrozzo, mi spiega una cosa, dato che la situazione mi sembra che stia diventando piuttosto critica, ci sarà bisogno di un centro di accoglienza, bisognerà strutturare un sistema di accoglienza? Proprio come diceva lei, noi ieri nel tardo pomeriggio abbiamo chiesto un incontro col prefetto di Udine, dottor Zappalorto, al quale abbiamo chiesto di provvedere immediatamente all'istituzione di questo hotspot, proprio per cercare di trattare, uso questo termine, dal livello legale e amministrativo, queste posizioni, in modo poi da sgravare le attività della polizia, uffici di polizia, che ormai sono al collasso. Io le dico al collasso nel vero senso della parola, questa attività nel Tarvisiano, dove c'è il nostro ufficio di polizia, che è il settore di Tarvisio, cioè vede i colleghi poliziotti fare turni, come dire, pesantissimi, cioè si figuri che dopo una notte i colleghi sono costretti a fermarsi 5-6 ore. Dopo, devono compilare tutto questo dopo aver fatto il turno di notte. Allora, io intanto la ringrazio, Donato Carrozzo, segretario provinciale aggiunto a Udine del SIULP, che ci ha dato questo quadro da Tarvisio, per certi versi inaspettato. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa e poi nella seconda parte della trasmissione un'altra storia, una storia che arriva dal Veneto, ve l'ha già raccontata in parte Gianluca Nicoletti, ma affrontandola, diciamo così, appunto con un grande sociologo, Derrick De Kerchove, e non solo, è la vicenda del sindaco che è entrato nelle classi e ha detto ai ragazzi: datemi i cellulari, se c'è qualche volontario ve li tengo, per così dire, in ostaggio una settimana e vediamo come vivete una settimana senza smartphone. Avremo il sindaco e ci parleremo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo di Radio 24. I nostri titoli: i vescovi attaccano la legge sulle unioni civili, di fatto un'equiparazione al matrimonio, dice Bagnasco. È indagato per malversazione l'ex vescovo di Savona, Domenico Calcagno, oggi amministratore della sede apostolica. Le stime dell'Istat per il 2016, PIL in crescita dell'1,1% e disoccupazione in calo all'11,3%. Due attentati suicidi a Baghdad hanno provocato oggi almeno 44 morti e oltre 90 feriti. Da Effetto giorno. E ora una vicenda che arriva dal Padovano, da Vigonza, dove il sindaco Nunzio Tacchetto, che è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ha chiesto agli studenti di consegnare gli smartphone su base volontaria, ovviamente, se li tiene in cassaforte per una settimana e vede come vivono. Ne ha parlato questa mattina anche il nostro Gianluca Nicoletti, in onda con Melog da mezzogiorno alle 13, e ha chiesto un'idea a Derrick De Kerchove, grandissimo sociologo, uno dei più grandi sociologi viventi. Sentiamo cosa ha detto. Cosa direbbe lei a questo sindaco che dice ai ragazzi: datemi il vostro smartphone come se fosse una via di salvezza? Ma io direi, prima di tutto, bravo lei, magnifico, un esperimento. Questa orientazione da fare è veramente una buona idea, però non sperare, questo è il segno di un ritorno indietro. No, certamente no. Il problema è di conciliare la proprietà di se stesso e quella che è condivisa sulla rete. Allora Tacchetto ha sentito che cosa dice De Kerchove, no? Dice, vabbè, insomma, carino, un bel esperimento, probabilmente anche con l'occhio del sociologo, però dice, insomma, non speri di cambiare il mondo con questo. Beh, ma io non mi metto neanche in testa di cambiare il mondo, però che ci sia almeno il tentativo di far capire che si può vivere per una settimana senza qualcosa che ci obbliga in tutti i minuti e a tutte le ore del giorno, questo sì, e non vuole essere assolutamente una proposta che cambia il mondo. Un modo per riflettere. E nemmeno un'idea luddista, per così dire, no? No, assolutamente. Però ho visto che i ragazzi, devo dire il 15%, perché sono 582 più o meno, hanno risposto in 63, mi sembra, no? Quindi, 63, perché eravamo fermi a 39 noi. 63. No, perché stamattina ho fatto la seconda scuola, il secondo plesso, e stamattina insomma c'è stato il resto del paese, un paese un po' più decentrato rispetto al capoluogo, e lì si sono organizzati proprio in maniera encomiabile. E sono rimasto sorpreso, perché non è facile per un ragazzino dividersi da quello che ormai è diventato il cordone ombelicale tra i vari amici. Quindi un complimento grande ai ragazzi, è solo una prova. Tacchetto, com'è nata questa sua idea? Ah, è nata che li vedo tutti i giorni, io spesso vengo in bicicletta, a parte i miei figli, insomma, che però sono grandini ormai. Ma venendo in bicicletta in comune. Ma l'ha fatto questo esperimento con i suoi figli? Quanti anni hanno i suoi figli? I miei figli hanno 27, 24, 25 e 20. E ci ha provato con loro? Sì, ci ho provato. C'è anche riuscito? Sì, funziona. C'è riuscito. Come funziona anche, ma non come, mi scusi, è dato che ho figli anch'io, non come, non come punizione, cioè no. No, proprio come esperimento volontario. Una prova di onestà intellettuale, di resistenza alla voglia, ecco, però funziona, anche perché scopri il gusto di altre cose, insomma, è più facile parlare, mentre è molto semplice mandare messaggi e dopo non avere riscontri fisici. Per esempio, chi è molto avvezzo al cellulare sopporta poco il confronto verbale e quindi diventa irascibile, diventa uno che non sente le idee degli altri, è molto... perché non hai mai riscontro, no, fisico. Lei ci avrà immagino anche parlato un po' con questi ragazzi, no, che le hanno consegnato i cellulari. Che le hanno detto? La cosa che mi è rimasta impressa è quella di dire: beh, insomma, io provo, addio cellulare, addio cellulare. Cosa le ha detto? Mi scusi, che si sente male. Che le ha provo, non so se ce la faccio, ma addio cellulare. Addio cellulare, solo per una settimana, santa pazienza, insomma. Beh, ma insomma, dai, io vedo che è stata anche dagli insegnanti è stata accettata con favore. Con ecco, favore. Dicevo prima che insomma vederli anche durante la ricreazione, nota bene, non potrebbero neanche averli i cellulari, ma comunque qualcuno in tasca c'è sempre, oppure vederli in giro per il paese nelle ore, durante le ore di svago, sempre così affari dietro, insomma crea un po' di nervosismo nella mia testa, quindi ho detto perché non provare. C'è anche un premio, no? Mette in palio tra chi ha consegnato il cellulare, una gita a Gardaland. Sì, una gita a Gardaland, però anche stamattina ho avuto riscontro che i ragazzi non sono venuti tanto per la gita, o meglio, la gita è sicuramente una cosa bellissima, però lo fanno perché hanno accettato la sfida. Un po' per mettersi alla prova, dice sì, lei. Per mettersi alla prova, sì, sì. Senta, e i genitori... Qualche genitore non ha provato, molti altri sì. Non hanno approvato quelli, immagino, quelli che hanno un po' la mania del controllo sui figli, dice mi sfugge per una settimana, no? Lei vedessi le mail di protesta che mi arrivano, che mettono 10 minuti a scrivere tutte quelle cose lì. Però ce ne sono tanti altri. Ma per esempio che cosa le scrivono i genitori? Che dovrei usare i soldi per invogliarli a fare delle cose diverse, che mi faccio per mettere in mostra, cose assolutamente false, perché è da 9 anni che faccio spinello, non ho più bisogno di mettermi in mostra. Certo. Non è quello. Diciamo che i primi a avere problemi sono proprio i genitori di questi ragazzi, cioè i quarantenni, dai 35 ai 45 anni, insomma, che sono abituati a notiziarsi attraverso vie etere. Sì, beh, i terribili gruppi WhatsApp dei genitori di classe, non me ne parli nemmeno. Io la ringrazio, le auguro buona giornata e magari tra una settimana ci risentiamo, così poi mi dice com'è andata il traffico. Buona giornata. Il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.